odio tutti, più odio tutti, più tempo passa. Ho ricordi brutti nella testa, nemmeno l'erba può cancellarli. Pensa, passo il tempo a scogitare come cancellarti. Non sono come gli altri, non sono come voi, che fate dei problemi degli altri vostri per farvi eroi. Infatti, volati in alto sulle teste come gli avvoltoi bastardi. Sono stanco di ascoltarvi, tutti questi anni passati in contesti sbagliati, mesi passati a fumare cristalli infuocati, momenti bruciati come fiammiferi oliati. Ci sentiamo grandi ma a confronto della terra siamo miseri, credimi, noi non siamo uguali, nemmeno lontanamente, al massimo siamo simili o forse per niente. Non ho più lacrime da versare, sfoglio pagine che ho smesso di macchiare con l'inchiostro. Dentro me un mostro da sfamare, fingo di essere tosto ma facile da tagliare. Non ho più lacrime da versare, sfoglio pagine che ho smesso di macchiare con l'inchiostro. Dentro me un mostro da sfamare, fingo di essere tosto ma facile da tagliare. Guardami mentre salto gli ostacoli, ho l'anima fatta di specchi ma fragili, spaccali, mandali in pezzi poi spargeli tra fiumi di angeli. Laghi ghiacciati, mangio con diavoli quali di draghi. Dentro di me ho venti polari che soffiano a mille chilometri orari. Immagini, scatti di nota alle acque del mare, gettami addosso la pelle finché non mi vedi bruciare. Poi prendimi, stringimi tra le tue braccia ghiacciate. Credimi, la vita è fatta di spigoli, ci batto la testa per farmi dei lividi, farmi del male per poi sanguinare e farmi curare da te. Sentimi urlare senza perché, forse c'è pezzo di spine. Tengo la gente lontana da me per capriccio infantile. Scrivimi intere pagine bianche, poi strappale per asciugarmi le lacrime fino a ferirmi le palpebre. Non ho più lacrime da versare, sfoglio pagine che ho smesso di macchiare con l'inchiostro. Dentro me un mostro da sfamare, fingo di essere tosto ma facile da tagliare. Non ho più lacrime da versare, sfoglio pagine che ho smesso di macchiare con l'inchiostro. Dentro me un mostro da sfamare, fingo di essere tosto ma facile da tagliare. Non ho più lacrime da versare, sfoglio pagine che ho smesso di macchiare con l'inchiostro. Dentro me un mostro da sfamare, fingo di essere tosto ma facile da tagliare.